Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Santo cielo, ci stiamo per infilare in una diatriba che forse non ha soluzione. Non ha soluzione, secondo me non ha soluzione, non neanche ha tirando soluzione. Dentro tecniche e scienza. Però forse una qualche direzione per interpretare il fenomeno ve la daremo. Allora adesso i titoli, benvenuti e benvenuti a Mebius e poi incominciamo. Vinile versus CD. Il vinile è tornato di moda, ma è davvero il modo migliore per ascoltare la musica? Quale dei due supporti ci restituisce la migliore qualità del suono? È arrivato il primo corso universitario per la progettazione dei videogiochi. Parte in autunno alla Statale di Milano. L'università deve promuoversi e può farlo usando il crowdfunding. Una proposta della Fondazione Emblema. Allora, l'avete sentito, era il primo dei titoli, vinile versus CD, ma come sentirete c'è davvero molto di più. Chiara, vuoi presentare chi è con noi? Direi di sì, ci ha raggiunto qui in studio un collega qui della redazione di Radio 24, Luca Cremonese, che è un fervido difensore del CD. Ciao Luca. Buonasera a tutti, ciao Chiara. E poi in difesa del vinile invece ha appena condotto la trasmissione precedente alla nostra, Soundcheck, Gegè Telesforo. Ciao. Eccoci qui, buonasera a tutti. Ciao buonasera. Gegè. E infine un tecnico, un esperto, uno studioso di fedeltà del suono, un ingegnere informatico, Lanfranco Rambaudi, che ci aiuterà un pochino a districarci in questo duplice... Per gli aspetti tecnici, no? Perlomeno. Rambaudi, buonasera. Buonasera a tutti e ai radioascoltatori. Poi noi sappiamo che lei ha anche una sua opinione, però prima farà, come dire, il super parte. Ci darà certo, qualche... io sono partigiano, ma cercherò di essere super parte. Ma lo diremo solo alla fine. Partiamo con il dibattito. Partiamo con il dibattito. Luca, in difesa del CD, cosa ci dici? Oppure introduci tu anche tutto. No, introduco il tema. Allora, il tutto nasce da questa tempesta mediatica intorno al ritorno del vinile, che sarebbe più corretto chiamare una bolla mediatica, perché io penso che sia molto gonfiata. Allora, è vero che il vinile è tornato, è vero che si vende in grande quantità, che le vendite sono raddoppiate, però innanzitutto va detto di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un settore che comunque, a fronte di una vendita raddoppiata, triplicata, rappresenta sempre un 2% del mercato e uno 0,2% del mercato americano e uno 0,2% del mercato italiano, quindi stiamo parlando del nulla. Quasi nulla. Certo. Quello che contesto non è il fatto della passione per il vinile. Io rispetto tutti quelli che amano la musica, rispetto i collezionisti di vinile e anche quei giovani che hanno scoperto il vinile adesso, che magari l'ascoltano perché fa un po' figo ascoltare il vinile, avere il vinile in casa. Amare il vinile significa comunque amare la musica. Quello che contesto è il fatto che si presenti il vinile come il futuro della musica riprodotta. Allora, io sono nato negli anni 60, sono cresciuto una generazione degli anni 60 che è quella che è cresciuta a pane e vinile. Quindi io ho amato il vinile, ma era un rapporto di amore e odio. Innanzitutto amore perché era l'unico modo per ascoltare la musica registrata, non c'era altro. Se volevi ascoltare la musica, l'equazione era musica uguale vinile. Odio perché il vinile comunque aveva dei problemi. I problemi che sono i frusci, il rumore di fondo, quando il vinile è in condizioni perfette. Ma certo. Quando il vinile comincia a essere in condizioni... brutte perché usurate, perché ti piace il pezzo, perché lo ascolti molte volte, perché l'hai comprato usato, ci sono i pops in clicks, i rumori di fondo, i dischi che saltano. Quindi io già da ragazzo sognavo qualcosa di alternativo e il mio sogno ha cominciato a concretizzarsi quando nel 76 ho visto il film L'uomo che cade sulla terra, un film di fantascienza David Bowie, dove c'era una scena, non so se ve la ricordate, dove c'era un personaggio che faceva levitare una sfera di metallo sopra un lettore. Questa sfera di metallo non si appoggiava, quindi, e da lì partiva la musica. Quindi io pensavo, fa che qualcuno inventi un qualcosa dove non ci sia la puntina che aggredisce il disco. E questo si è concretizzato nell'83 con i primi lettori CD in Italia. Io nell'83 ho visto per la prima volta nei negozi questi CD, non sapevo cosa fossero, mi sono informato, ho letto tutte le riviste. E ti è cambiata la vita. E nel giugno dell'83 ho firmato 12 cambiali e ho comprato il mio primo lettore CD. E da allora non ho più acquistato vinile, mi sono convertito completamente, perché per me CD significava musica di buona qualità, senza rumore di fondo. Fermi, Gegè, in difesa del vinile. Beh, intanto... certamente il supporto su CD ha la sua praticità e certamente su CD si registra con un sistema che è quello digitale, per cui si ha la possibilità di poter eliminare tutti i frusci dei quali ci stava parlando Cremonesi. Però devo dire una cosa, che facendo l'ascolto e la comparazione dell'ascolto fra i due supporti, quando si ascolta un vinile d'epoca in perfette condizioni, l'orecchio di un musicista percepisce il calore dello strumento registrato e percepisce anche quella che i musicisti definiscono l'aria che c'è fra la, proprio la distanza fra il microfono e la ripresa del suono originale dello strumento. Vedi come complesso. Questo tipo di sensazione per un musicista è molto piacevole, soprattutto se parliamo di generi musicali che sono stati registrati con sistemi analogici, no? E quindi c'è tutta la catena di produzione che deve essere fedele a questo tipo di concept, microfoni valvolari, registrazione su un nastro, magari un bel registratore Studer a 24 piste, masterizzazione che rispetta certi canoni. Quindi per un musicista di jazz o per un musicista di musica classica, ascoltare la propria opera attraverso il vinile dà ancora quella sensazione piacevole che un si è persa con il suono pulito, forse anche cristallino, con le frequenze enfatizzate sulle alte e sulle basse, tipiche della registrazione digitale e quindi del supporto. Ecco, perché tu, JJ, hai introdotto prima una cosa che è tecnicamente, quindi anche scientificamente rilevante, cioè tu dici, se io ho uno strumento musicale analogico, il piano, insomma, corde e pezzi di legno, allora se tutta la registrazione è analogica viene rappresentato di più, quindi è un'affermazione abbastanza forte, cioè tu sei convinto di questo? Esatto, perché quello che succede oggi, cioè che c'è il rilancio del vinile, i ragazzi stanno riscoprendo il vinile, ma la produzione dei dischi viene sempre realizzata con un sistema di registrazione digitale, quindi tutto fatto su computer, tutto fatto con la tecnologia contemporanea. Poi c'è la conversione in analogico per la stampa del vinile. E allora questo è un ibrido, ma cioè, se compariamo il suono, per esempio, di un disco, un classico del jazz, Kind of Blue di Miles Davis, dell'epoca, il vinile che comprò il mio papà alla fine degli anni 50, con la masterizzazione su CD fatta oggi per la distribuzione di oggi, certo il suono del CD è cristallino, è puro, ma attraverso il vinile si sentono proprio le chiavi del sassofono di John Coltrane, che la passione, l'atmosfera, certo. Si percepisce proprio l'atmosfera della stanza dello studio dove è stato realizzato l'album, e per un musicista questo vuol dire molto, fa la differenza. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Torniamo alla nostra diatriba, cioè vinile contro CD. Abbiamo già avuto due opinioni, quella di JJ Telesforo, che ci ha detto che insomma nel vinile c'è un'aria, c'è un sound diverso, e quella di Luca Cremonesi, che qui vedo già fremente, che invece ha sognato per tanto tempo il CD, finalmente è arrivato il lettore CD ed è, credo, convinto di una idea opposta. Però chiamiamo in causa il nostro Lanfranco Rambaudi. Allora Rambaudi, dal punto di vista dello spettro, cioè dell'analisi delle frequenze prodotte da uno stesso pezzo registrato su vinile e registrato su CD, questo lo si può fare con una strumentazione che interpreta, no? Che traduce i suoni in grafici, che sì. Cosa si può dire? Certo, introduco solo un attimo qual è la banda di frequenza del CD, perché è fondamentale per capire tutto ciò che segue. Questa banda di frequenza va dai 20 Hz ai 20 kHz, quindi copre l'intero intervallo di un normale dell'udibile. Dell'udibile. Il CD stereo viene campionato a 16 bit 44.1 kHz, questi 44.1 kHz sono il doppio della frequenza di Nyquist, e questo è il limite superiore oltre al quale il CD non è in grado di riprodurre alcun suono. Cos'è questa frequenza di Nyquist? Cioè è la soglia? È la soglia. Deludibile. È la soglia massima del suono riproducibile sul CD. Ma tanto se non lo sentiamo... Naturalmente, deludibile naturalmente dipende anche dal soggetto. Sì, ok, ci possono essere diversità. Però mediamente queste sono... Mediamente sono queste, quindi... Ma scusi, cosa serve registrare a 44 se tanto noi udiamo 20? 44, il CD è stereo, facciamo 44 diviso 2. Ah, ok. Ci ha ingannato. Va bene, però adesso arriviamo al punto. Se facciamo il confronto con alcuni vinili di qualità eccetera, si arriva facilmente a 100-150 kHz. Bisogna tenere conto della dinamica, anche la differenza tra i valori di ampiezza minimi e massimi riproducibili. Quando abbiamo un segnale elevato il sistema va facilmente in sovraccarico, in overload. Allora arriva la distorsione maggiormente presente sul supporto vinilico. Come accennava Gege in precedenza, un aspetto fondamentale purtroppo è la filiera che potrebbe essere interamente digitale, interamente analogica, quasi sempre mista. Se interamente analogica, solo per quanto riguarda naturalmente gli album fino alla fine degli anni 70. Per filiera lei intende quello che dicevo io prima, e cioè il fatto che tutti gli strumenti, da quello che produce il suono, tipo il piano, fino al momento finale, anche i microfoni, sono di tipo analogico, no? E quindi c'è una coerenza totale. Però, senta Rambaudi, mi sembra che lei stia arrivando verso la conclusione che in pratica dipende dal pezzo, dipende dai suoni che ci sono in ballo, un confronto che faccia la differenza non c'è. Un'analisi spettrale di un paio di album di Frank Zappa di fine anni 80, intendo un'analisi comparativa dello stesso album in vinile e in CD. Prima stampa, stesso master, eccetera, eccetera. Se si analizza il file estratto dall'analogico, quindi il cosiddetto RIP vinile, notiamo diversi picchi di frequenze attorno ai 30, 40, 45 kHz. Mentre se andiamo a vedere il file estratto dal CD, non superiamo i 20 kHz naturalmente. E questo sembra portare acqua al mulino dei fautori del vinile. Cioè, ecco, il vinile cosa contiene? Maggiori informazioni, più realistico e più naturale. Dov'è il problema? Questi due album sono stati registrati interamente in digitale, con campionamento a 50 kHz. Quindi non può esistere alcun contenuto, alcun suono, alcuna informazione che vada oltre i 25. Questo è un caso in cui, diciamo, la distorsione armonica del vinile viene interpretata, sottolineo erroneamente, come una maggior dinamica di frequenza del vinile stesso. Quindi lucciole per lanterne. L'analisi spettrale dice non dice. Non riusciamo ad arrivare allora a una conclusione definitiva. Dal punto di vista tecnico, diciamo, il problema è aperto. È aperto, i fautori del vinile insistono sulla maggior naturalezza del suono, ecco, questo è uno dei loro punti, ma sappiamo che il vinile ha un range dinamico limitato e varie forme di distorsione, no? Alcune di queste distorsioni tendono a dare all'ascolto un suono più naturale, direi più risonante. Gli amanti del vinile sostengono che questa naturalezza del suono è la prova dell'accuratezza del vinile. Per accuratezza intendo il termine tecnico che relaziona la registrazione in studio con l'output. In conclusione, cos'è? I talebani del vinile non ammettono che quello che una delle cose che apprezzano maggiormente nel vinile è, tecnicamente parlando, la distorsione. Gege, è vero? È vero. Cioè, comunque stiamo parlando di due supporti che stanno morendo, quindi da nostalgici, visto che siamo nati, mi sembra, quasi tutti intorno agli anni 60, forse anche prima, dobbiamo capire che adesso sia il vinile che il CD stanno scomparendo completamente, visto che poi tutta la musica adesso viene compressa su un formato ridotto, che è quello dell'MP3, che quindi cancella completamente tutti gli aspetti tecnici, perché oramai la musica è diventata quasi un oggetto da supermercato e non un'arte. Cremonese qui ha qualcosa da dire. No, su questo sono d'accordo con Gege, che effettivamente i formati fisici stanno scomparendo. Le nuove generazioni, facciamoci una ragione, non sapranno cosa vuol dire il formato fisico, perché andranno verso il download e soprattutto verso lo streaming online. Allora, quello che voglio dire è che la morte annunciata del CD, già negli anni 80, quando i media combattevano il CD perché lo odiavano, perché i media non hanno mai amato il CD, perché il CD fa tanto borghese, mentre il vinile fa proletario, quindi non hanno mai amato il CD. Questa morte provocata anticipatamente dai media da una parte e dalle stesse case discografiche che si sono fatte harakiri perché con la loro politica di prezzi non hanno saputo prevedere che un giorno sarebbe arrivato il download a sostituire il CD, a cosa è servito? A cosa sarà servito far scomparire il CD, far scomparire la ricerca sulla qualità? A portare una nuova generazione ad ascoltare musica di bassissimo livello, a non far capire ai giovani l'importanza dell'audio di qualità. Allora, perché se il vinile deve scomparire, se il CD deve scomparire, l'alternativa non è il vinile? Perché sarebbe come se invece dell'alta velocità si proponesse il treno a locomotiva a vapore. Sì, vabbè, fa tanto fascino, ma prova a andare romantico, però. Esatto. Allora, bisogna puntare secondo me sulla qualità del suono, che può essere anche nel download ad alta risoluzione. Ci sono i formati ad alta risoluzione, perché quello che diceva José Telesforo prima, che è vero che c'è una maggiore spazialità, io percepisco tutti gli strumenti col vinile, se facciamo un confronto con il CD degli anni 80 campionato a 44 kHz a 16 bit, ma oggi esistono dei formati CD ad alta risoluzione, esistono soprattutto dei formati alternativi che sono il DVD audio, il Super 2 CD, il Blu-ray audio, che permettono innanzitutto un suono ad alta risoluzione, che significa non comprimere il suono, significa una maggiore presenza dinamica e soprattutto significa un suono che può essere stereo, ma può essere anche 5.1, quindi su 6 canali, cosa che il vinile non può assolutamente offrire. Perché qui quello che sta venendo fuori, purtroppo, GG, Luca, Chiara, insomma, è che la buona musica non l'ascoltiamo a priori, non c'è il problema vinile verso il CD. Il disastro è che andando tutti col download, no, GG, qua la qualità musicale. Però io volevo sapere se esiste il famoso download ad alta risoluzione, per cui mi dicono appunto che sta, mi metto dalla parte, no? dei giovani, cioè ho la possibilità, utilizzando il download, però, di avere un suono pulito? No, è che adesso le case discografiche, quando realizzano, dopo aver realizzato una produzione più o meno importante, realizzano vari tipi di masterizzazione, cioè c'è un mastering, la produzione viene fatta sempre in digitale utilizzando i computer, perché ormai questo è lo standard del sistema, utilizzando vari software più o meno sofisticati. Poi alla fine vengono fatte masterizzazioni diverse. Se si fa il mastering per il vinile, si utilizzano certi parametri che si rifanno al sistema analogico. Si fa la masterizzazione per il CD, ma si fa oggi anche la masterizzazione per l'MP3, cioè masterizzato per iTunes. E lo si nota perché andando su iTunes alcuni supporti riportano proprio questa dicitura: masterizzato per iTunes. Ecco, Rambaudi, l'ultima cosa per chiudere, proprio abbiamo 30 secondi. Si può avere il supporto migliore del mondo, DVD, Blu-ray? Direi file ad alta definizione. Ad altissima definizione, però se abbiamo un cattivo impianto di riproduzione, niente, finita. È finita. Naturalmente si parla di condizioni ideali. L'ascolto del vinile presuppone il possesso di un impianto da svariati migliaia di euro. In questo caso il vinile può essere paragonabile al CD o al digitale, ecco, su impianti da 4 soldi, chiaramente. Che è il 99,9% di quelli che usiamo. 99,9%. Insomma, questa musica non l'ascoltiamo mai. Insomma, come... bisogna avere almeno 5.000 euro, mi diceva Luca, per avere un buon impianto. Io credo che valga la pena investire, fare dei risparmi per comprare un impianto di buona qualità. Perché è inutile avere, cioè si può scegliere il vinile, CD, quello che si vuole, anche un download, anche uno streaming che si può ascoltare ad alta risoluzione, ma se tu non hai un buon amplificatore, delle buone casse, non serve assolutamente a nulla. E questo i giovani non lo possono capire ed è difficile farlo arrivare, secondo me, perché se si abituano ad ascoltare la musica sul cellulare con dei download a 128 bit, 128k, se vedemo, e con le cuffiette da pochi soldi, non possono capire la qualità del suono. Sì, scusa Luca, i giovani, cioè un impianto da 5.000 euro... non ce l'ho neanche io. No, ecco, no, adesso tu hai fatto risparmi per anni. Il mio primo impianto l'ho comprato a 15 anni andando a lavorare d'estate. Vedi, cioè, è un progetto di vita. Va bene ragazzi, allora ringraziamo tutti voi. Grazie che abbiamo capito che è tremendamente controversa questa vicenda, e c'è il dolore dettato dal fatto che noi la musica, come dovrebbe essere, bene o male, non la sentiamo, non la possiamo mai ascoltare. Grazie GG, grazie Rambaudi, grazie Luca. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Allora, arriva un corso di laurea universitario dedicato al videogame. Adesso entreremo un po' nei dettagli di questa cosa. Ed è il primo in Italia e si terrà a partire da autunno all'Università Statale di Milano. Ci sarà un boom di iscrizioni, immagino. Io penso di sì, penso di sì. E abbiamo qui con noi Laura Ripamonti. Buonasera, Laura. Buonasera, Federico. Prego. Allora, lei è del Dipartimento di Informatica dell'Università Statale di Milano, è coinvolta già in corsi che riguardano i videogame, ma qui si sta parlando molto di più. E poi abbiamo anche Chiara. Andrea Scambia. Ciao Andrea. Buonasera a tutti. Ex studente della professoressa Ripamonti e adesso lavora ovviamente in una grande, in una grandissima azienda, leader mondiale di videogames, che è la Ubisoft. Allora, Ripamonti, perché c'è bisogno di un intero corso? Adesso specifichiamo, perché fare videogame è come fare un film, cioè ci sono gli attori, i registi, gli scenografi, c'è di tutto. Assolutamente sì. Voi immagino che non riusciate a fare tutto, però c'è moltissimo che invece bisogna imparare come elementi fondamentali per fare videogame. E voi lavorate su questo? Assolutamente, diciamo che giustamente come diceva lei, creare un videogioco è un progetto estremamente complesso e estremamente multidisciplinare, perché coinvolge dalle arti visive alla capacità di creare delle buone situazioni di storytelling, anche ovviamente alla matematica, all'informatica, alla fisica, eccetera, eccetera, c'è veramente un po' di tutto. Diciamo che un percorso di laurea magistrale sui videogiochi cerca di coprire, nel nostro caso, essendo erogato al Dipartimento di Informatica, cerca di coprire quelle che sono le competenze più legate alla matematica e all'informatica, che sono chiaramente le materie su cui noi abbiamo più competenza e che sono tra l'altro fondamentali nei videogiochi, perché il videogioco poi alla fine il prodotto finito è un software. Quindi è importante avere gli skill adeguati per riuscire a portare a termine questo tipo di progetto. Quindi date tutte le nozioni per quella che è la parte di programmazione, di realizzazione concreta del videogame. In realtà non soltanto strettamente legate alla programmazione, ma anche legate alla progettazione, perché un'altra delle componenti fondamentali di un videogame è il game design, quindi il saper ideare, creare un gioco che non solo abbia una bella idea e sia appealing, ma sia anche divertente poi da giocare. Quindi diciamo che è necessario anche apprendere e affinare questo tipo di skill. Quindi nell'ambito del nostro percorso, che è nato da dei corsi, da dei singoli insegnamenti che vengono erogati da 4 anni presso il nostro Ateneo, si cerca anche di fornire questo tipo di competenza. Tant'è vero che abbiamo 2 sbocchi professionali per la laurea magistrale. Game programmer, che è il programmatore super specializzato, per così dire, tra virgolette, sulla creare il codice del videogioco, quindi implementare il videogioco, e il game designer, che è invece colui, come poi è diventato Andrea, tra l'altro, che abbiamo qua ospite, che è quello che invece progetta il gioco e che poi fa un po' da guida, quindi da team leader a tutto il gruppo, come dicevo prima, molto multidisciplinare, che si occupa del realizzare in pratica il prodotto. Perché, come dicevamo prima nell'esempio del film, non può essere che un tecnico delle luci non sappia niente di che cos'è la regia. C'è per forza una sensibilità da incrociarsi fra tutti. Assolutamente sì, ci deve essere una contaminazione tra i vari aspetti. Tant'è vero che proprio per questo noi abbiamo sempre organizzato gli insegnamenti che abbiamo erogato finora, quelli più strettamente legati ai videogiochi. Poi chiaramente è necessario imparare tutta una serie di cose che sono anche di base per riuscire poi ad avere le competenze necessarie per collocarsi in quel tipo di lavoro, quindi matematica, fisica, eccetera. Però diciamo, nei corsi, quelli che sono un po' la summa del sapere che serve per fare un videogioco, abbiamo sempre cercato di legarci molto durante il corso a quello che è il processo produttivo. Quindi gli studenti si trovano a dover sviluppare dei prototipi che contengono tutti gli aspetti di un gioco vero e proprio, quindi anche la grafica, quindi anche lo storytelling, oltre alla programmazione vera e propria. Quindi una dose anche di creatività molto, molto forte, diversa da quello che è un corso di informatica, insomma, più tradizionale. Beh, insomma, i programmatori hanno una bella dose di creatività. Allora, fatta a loro modo, però ce l'hanno, diciamo. È tutta spostata in una direzione, non come si intende classicamente la creatività. Certo. Esattamente. Sì. No, in questo caso no, è necessario appunto avere delle contaminazioni, come dicevo prima, con anche altre discipline. Tanto è vero che spesso e volentieri nei gruppi dei nostri studenti vengono coinvolti ragazzi che invece si occupano di grafica o di arte strettamente. Che gli danno una mano, insomma, certo. Ma questo gli serve anche perché così imparano che cosa vuol dire lavorare poi in un gruppo multidisciplinare, perché questo poi è quello che si troveranno a fare, insomma. Ecco, Andrea, prima la Ripamonti diceva una cosa, diceva che bisogna anche sapere di fisica. Perché, forse questo magari a tante persone che ci ascoltano non può sembrare strano, ma perché ormai nei videogiochi ci sono già dentro, simulate dal software, no? Le situazioni fisiche che incontriamo nel reale. Mi pare che tu stai lavorando proprio a un progetto che è un videogioco, Just Dance, come si chiama? Sì, si chiama Just Dance, ho lavorato in passato a questo gioco. Che è un gioco che sta avendo un notevole successo. Lì dentro c'è la simulazione di una danza che deve fare però l'utente, è una cosa attraverso Kinect, no? Cioè questo sistema, sì, allora, per cui... Ma dici tu come funziona? Allora, di fatto quello che si fa quando si gioca a Just Dance è cercare di riprodurre i movimenti fatti da un ballerino o da una ballerina che si vedono a schermo e... cercare di interpretarli nel miglior modo possibile utilizzando quelli che sono i motion control cosiddetti, che sono appunto controller speciali come dei telecomandi oppure delle telecamere che di fatto riproducono quello che vedono o che i loro sensori vedono, diciamo da un punto di vista informatico, e cercano di dare dei riscontri al giocatore per far sì che appunto lui quando gioca capisca come sta andando o meno. Quindi la fisica per quanto riguarda la programmazione sicuramente entra in gioco prepotentemente anche in un gioco di ballo, quindi assolutamente sì, insomma. Sì, ma se un personaggio un po' grassottello però vuole giocare a Just Dance, poi dopo lì nel gioco voi cosa fate? Gli venite incontro rendendolo un po' più ballerino, un po' più performante oppure si rompe tutto? Perché se diciamo fa una spaccata... È una cosa a monte, che si fa a monte, diciamo. Quando si fanno le coreografie insieme ai coreografi, quello che facciamo noi è cercare di badare tanto all'accessibilità, perché alla fine quello che ci interessa a noi è che tutti, più persone possibile, quando giocano si divertano, e quindi è fondamentale che il creare una coreografia che non sia assolutamente pericolosa per chiunque e allo stesso tempo che sia facile da imparare, perché... Di solito quello che succede è che i giocatori cercano di riprodurre in tempo reale quello che vedono a schermo, quindi a meno quelli più affezionati, diciamo, che si imparano le coreografie a memoria. Quindi diciamo che la cosa fondamentale è che sia tutto chiaro e sia semplice, perché affinché lo possa fare, possa ballare, si possa divertire dal bambino di 3 anni alla e ci sia una continua buona mediazione. Sono sicura che insomma qualche ascoltatore seguirà la scia di Andrea e frequenterà il corso della Ripamonti. A questo proposito, per chi si fosse incuriosito, segnaliamo che Laura Ripamonti, mi dica se sbaglio, martedì 1 luglio in statale, quindi in via Festa del Perdono qui a Milano nella sede più grande, c'è proprio una kermesse in cui raccontate che cosa si farà ovviamente in questo corso di laurea che prenderà piede, ma si potrà anche un po' giochicchiare. Assolutamente sì, diciamo che è un evento un po' tutto tondo sui videogiochi, è nato sulla base di eventi che noi abbiamo sempre organizzato alla fine del nostro insegnamento che avevamo sulla progettazione di videogame. Parlo al plurale perché in realtà non sono soltanto io la responsabile del percorso e dei corsi, ma anche il dottor Maggiorini. Come dicevo prima, appunto, noi abbiamo sempre cercato di mantenere uno stretto rapporto con il processo produttivo industriale e con le aziende che sono sempre state coinvolte, venivano a fare seminari durante i corsi su aspetti specifici della progettazione e produzione di giochi, per cui diciamo alla fine del corso gli studenti presentavano i loro progetti, e lo faranno anche quest'anno, quindi i videogiochi che hanno sviluppato, alle aziende del settore. E questo ci sarà trasferimento tecnologico praticamente tra chi ha prodotto e chi invece dovrebbe poi finanziare il tutto. Esattamente, l'idea era proprio questa, tanto è vero che la giuria per votare aveva dei soldi finti, per cui sostanzialmente vari gruppi dovevano convincere i giurati a investire sul loro gioco. Va bene. E diciamo che il nostro spirito è sempre stato quello di cercare di trasformare questo evento in un evento che legasse un po' tutti quelli che si occupano di videogiochi da un punto di vista non puramente commerciale, ma sul fronte culturale, essendo noi un ateneo. Ovviamente diciamo che questo è il nostro main focus. Bene. E quindi quest'anno si è deciso di ingrandire l'evento, inquadrarlo nell'ambito delle celebrazione per il 90° della statale, per l'appunto, e quindi avremo tantissime cose. Avremo di nuovo il nostro solito concorso con gli studenti che presentano i loro progetti. Ci saranno poi tantissime altre cose. Avremo tutti gli stand delle aziende del settore, ci saranno anche una parte più istituzionale in cui ci sarà una tavola rotonda legata alle problematiche di insegnare a creare videogiochi, visto appunto da un punto di vista multidisciplinare. Tutto, saranno... il videogame a 360 gradi, ricordiamolo, martedì 1 luglio per tutto il pomeriggio fino alle 19 in statale. Esattamente. Ok, grazie, allora in bocca al lupo per l'evento, grazie anche ad Andrea. Grazie mille, vi aspettiamo, numerosi, se volete venire. Se ce la facciamo veniamo. Grazie, arrivederci, buon lavoro. Grazie a tutti, buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sto per parlarvi di una modalità particolare per utilizzare il crowdfunding, e adesso magari per chi non conosce questo termine lo spiego. Intanto però introduco il mio ospite, Tommaso Aiello. Buonasera Aiello. Buonasera a voi. Lei è della Fondazione Emblema, con che incarico? Il presidente della Fondazione? Sono il direttore generale. Il direttore generale della Fondazione. La Fondazione fa diverse attività nel campo dell'innovazione. Una di quelle più note, ne abbiamo anche parlato qui a Mebius, è la Borsa della Ricerca, che si tiene già da, credo, 3 anni a Bologna. Abbiamo fatto la quinta edizione. Quinta edizione, vede, siamo arrivati già alla quinta edizione, e la Borsa della Ricerca è un grande momento di incontro tra start-up, quindi nuove idee, innovazione, e aziende, quindi possibili interlocutori per andare al mercato. Però qui noi la chiamiamo e la sentiamo per una vostra particolare iniziativa. Allora, Aiello, mi dica se sbaglio, io provo a introdurre questo tema. Crowdfunding, termine inglese, crowd, gente, e funding è finanziamento, è questo sistema che con la rete è diventato un dato, insomma un nuovo strumento per recuperare sostegni e quindi anche denari per le attività più diverse. Tipicamente viene utilizzato per delle attività di ricerca. Noi la prossima settimana qui a Mebius vi presenteremo un caso di una ricerca in campo biologico con un team internazionale. Hanno chiesto un finanziamento diffuso e hanno ottenuto 140.000 euro. Però il crowdfunding, Aiello, può essere anche utilizzato per molte attività di tipo culturale, sociale, no? C'è una bella impresa, un bel progetto e si chiede alla gente di finanziarlo. Però voi avete introdotto una variante che mi sembra particolarmente interessante, cioè quella che potrebbe essere usata molto dalle università, dai centri di ricerca, e cioè quella di utilizzare il crowdfunding come uno strumento per promuoversi, per fare attività di promozione della propria attività di ricerca, per esempio. Assolutamente sì, cioè noi crediamo che possa essere uno strumento nuovo ed un'opportunità da cogliere. Per diversi motivi, per attrarre risorse su progetti che normalmente non sarebbero finanziati, cioè tipicamente progetti che non riguardano la ricerca industriale, per esempio, sì. oppure per attrarre finanziamenti da parte di singoli cittadini che normalmente sono estranei a questo tipo di attività. C'è anche una sfida dall'altra parte, la sfida è quella di saper raccontare bene la ricerca, cioè a che cosa serve quello a cui si sta lavorando. E voi avete lavorato un esempio concreto a Bologna, forse se ne parliamo si capisce come funziona il meccanismo. Sì, avendo deciso di incentrare la Borsa della Ricerca di maggio sul crowdfunding, abbiamo detto proviamo a portare un esempio concreto. Allora abbiamo contattato uno spin-off dell'Università Sapienza di Roma che sta portando avanti un progetto per sviluppare, per ricostruire con la tecnica della realtà aumentata i monumenti minori. Sì. Sono ricostruzioni che costano poco e di grande impatto e fruibili anche da dispositivi mobili, che però consentono di far conoscere a tante persone monumenti che normalmente nel tour ordinario di un turista non si vanno a visitare. Okay. Facendo la Borsa della Ricerca a Bologna abbiamo individuato un monumento che è la Salara, e abbiamo chiesto... È una chiesa? Che cos'è? È una... No, è un vecchio magazzino del sale. È un vecchio... Ah, Salara, ho capito. È un vecchio magazzino del sale. E quindi abbiamo chiesto, soprattutto ai delegati della Borsa del Placement, ma poi attraverso un po' tutti i contatti che abbiamo per la nostra attività, di sostenere questo progetto anche con piccoli contributi. Con piccoli contributi. Il contributo minimo era 2 euro, lo spin-off doveva trovare 3.000 euro e pochi giorni fa questa è stata raggiunta. Però Aiello, questi 3.000, che possono essere magari in altri casi anche 5.000, 6.000, sono chiaramente cifre che non servono per fare il lavoro su questo reperto storico. Però voi avete fatto un esperimento perché con questi denari il gruppo promuoverà la propria attività, il che potrebbe portare allora al fatto che diventano più noti e possono fare in altri casi la stessa attività. È un po' questo il senso del crowdfunding per la promozione? Allora, in realtà con quella cifra è proprio quella che serve per sviluppare questa ricostruzione in realtà aumentata, quindi il progetto verrà fatto. Ah, verrà comunque fatto perché è di basso costo. Sì. E il ragionamento che stiamo portando avanti qual è? È chiaro che questi 3.000 euro, anche quelli che diceva lei, un po' di più, non cambiano la vita dello spin-off. Però dal punto di vista della comunicazione, della visibilità, sono una leva notevole. Cioè, il fatto di poter aver realizzato un prototipo e un primo esperimento consente intanto di farsi conoscere, perché anche la chiacchierata che stiamo facendo noi in questo momento è un modo per far conoscere l'attività dello spin-off. E secondariamente consentirà di proporre ulteriori realizzazioni con la stessa tecnica, avendo già il prototipo. Sì, quindi è una dichiarazione di intenti. Ah, ok. Quindi il finanziamento serve per realizzare il prototipo, che però a questo punto diventa un oggetto promozionale di tutto quello altro che si potrebbe fare. Certo. Ok, quindi certo. Insomma, allora il messaggio che dobbiamo dare è: pensate al crowdfunding anche in una sua fase intermedia, in cui diventa un volano per fare di più con relativamente a quel progetto. Ecco, Tommaso Aiello, in conclusione, a Salerno questa settimana voi avete un altro appuntamento grosso, dove ci sarà un grande incontro domanda ricerca tipo Bologna, e però avete un appuntamento seminariale, un convegno dedicato a questa specifica modalità del crowdfunding. Sì, dal 2 al 4 luglio realizzeremo l'edizione che abbiamo voluto chiamare For Sud della Borsa della Ricerca con l'Università di Salerno e tante aziende, spin-off, start-up e anche dei candidati, perché ci saranno anche almeno 700 colloqui, faremo una giornata del 3, sì, tutti in un giorno solo, e abbiamo deciso, visto l'interesse che ha suscitato questo tema, di dar seguito all'approfondimento del crowdfunding. Certo. Quindi alle 11.30 ci sarà un workshop aperto a tutti, in cui si discuterà proprio di quello che può rappresentare il crowdfunding per la ricerca universitaria, quindi non una leva finanziaria determinante, come ma abbiamo, di marketing. Come abbiamo spiegato. Va bene, Aiello, grazie e buon lavoro. Grazie mille, arrivederci. Siamo in conclusione. Tu, Chiara, sai che cos'è l'ognato dinamometro? Dunque, si dice anche occlusometro, se vuoi. Gnato mi dà l'idea di qualcosa fatto con la bocca. Snacca. Però, esatto. È lo strumento. Non farai mica riferimenti alla cronaca sportiva. È lo strumento con il quale si misura la pressione di un morso, di uno squalo, per esempio, ma anche di un umano, un adulto. Ma anche di Suarez. Ma anche di Suarez, esatto. Un adulto maschio umano può sviluppare una pressione variabile fra i 45 e i 68 kg. Ecco, non chiedermi perché quasi pari al proprio peso, quasi, no? Quasi, certo. Non ho la minima idea perché, ma risulta che i maschi Inuit, hai presente la popolazione? Certo, gli eschimesi, che sai che loro non vogliono essere chiamati eschimesi, eh? Per capirci. Allora, il maschio Inuit arriva a 159 kg. Di morso, non so perché. Ma tu credi che appunto sia in qualche modo influenzata dalla dieta, nel senso che loro mangiando renne c'ha gli orsi polari di fianco, non so perché. Comunque, se l'Italia avesse giocato contro la nazionale Inuit va bene, invece questo qui cosa avrà dato? Avrà fatto una roba da 50 kg a chiellino, non abbiamo quindi dati. È inutile menarsela anche per via di questo morso. Che poi dal punto di vista proprio evolutivo, il morso negli animali, insomma, si usa nella lotta, però diciamo che, ma sì, direi che è un gesto piuttosto inefficiente, cioè nel senso che magari aggredisci, difficilmente un animale uccide con un morso, a meno che ovviamente non si tratti di uno squalo o di animali che possono emettere sostanze molto velenose, ad esempio i serpenti. Quindi nella nostra specie diciamo che è un gesto praticamente inutile, tanto che se ne è fatto oggetto di studio, ovviamente non molti, ma insomma qualcuno ne abbiamo trovato, e addirittura si è scomodata la National Institute of Health, quindi l'istituzione nazionale della sanità americana, che nel 2007 fece uno studio, e quello che è venuto fuori è che ovviamente il 90% dei morsicanti agisce perché è sotto l'effetto di alcol o droga, quindi devi essere un po' fatto, è molto cioè devi essere un po' alterato per mordere una persona, e poi ovviamente, scusa, questo non lo dovevo dire, sono più gli uomini delle donne, però Beh, è un dato, ci sta. L'altra cosa che invece è stata studiata è appunto la potenza, come dicevi tu, e gli esseri umani hanno una potenza di morso molto forte, che è fino a una volta e mezza superiore a quelli delle grandi scimmie, quindi degli scimpanzé e degli orangutan. Quindi devo dire calciatori che siamo calciatori, forse ancora di più. Esatto, infatti adesso apriamo uno studio affinché si possa studiare la mascella di Suarez. La sindrome di Dopodiché Suarez. Mi sembra un gesto proprio brutto, riprovevole. Bene, va bene, allora, con buona questo settimana abbiamo concluso. A tutti e a tutte.